Innovation Valley, come dice il nome, è questa valle dell'innovazione. È una piattaforma territoriale che non ha confini geografici precisi, ma che sta, corre sulla A4, sale, per cui fa il Veneto, il Venezia Giulia e il Trentino d'Alto Adige. Insomma, è il nord-est, quello che ne è definito, culturalmente sempre stato definito negli ultimi anni, come il nord-est dell'Italia. In questo luogo, dove si è addensata gran parte della ricchezza e del PIL, se pensiamo negli ultimi 30 anni, la provincia di Vicenza nel 1999 aveva l'export della Grecia e del Portogallo messi assieme. In questo territorio straordinario, dove si sono addensate più di 3.000, quasi 3.000 zone industriali, anche grandi criticità di ordine che non possono essere negate, ambientale, sociale, culturale, dove sono nati i fenomeni politici degli ultimi 30 anni, questo territorio molto disomogeneo e con un'alta densità di diversità e di tipologia, di ricchezza tipologica, anche imprenditoriale, sociale e culturale, su questo territorio è nata una sorta di rivoluzione industriale. Rivoluzione industriale e culturale che non è semplicemente produttiva, come è stata detta poi da gran parte degli economisti, perché questi 2.500 zone industriali non si capiva bene cosa facessero. Producevano un grande PIL, ma con una lettura, grandi imprenditori, un po' i cinesi d'Europa, gente che si è fatto il capannoncino, è partito dal garage, poi il capannoncino, il cannone, la casa capannone, e lì hanno prodotto questo PIL. Ma poi cosa ci facessero all'interno di sta roba non era tanto chiaro. In realtà all'interno di quest'area, appunto di questa Innovation Valley, si addensa gran parte della produzione del fashion, del design, della manifattura. Il Salone del Mobile, che apre il 22-23 di aprile a Milano, che è la più importante manifestazione del mondo del design, ha nel salone ha 350 aziende del nord-est. Ad Euroluce, la più importante manifestazione nell'ambito della luce, ne ha 150, al fuori salone ne ha 100, che significa che da quest'area del mondo provengono circa 600 aziende solo nell'ambito del design, escludendo tutto l'ambito creativo, progettuale e dei progettisti e designer. Cosa vuol dire? Che più o meno il 60-70% del mercato del design mondiale mi è radicato in una parte, in un territorio molto ristretto. Un paragone simile può essere fatto con il sistema della moda. Che siano licenziatari, che siano proprietari di marchi, se uno va a Madison Avenue o in Fifth o a Soho a New York, troverà una densità straordinaria di imprese italiane, questa cosa che è piuttosto misconosciuta, e moltissime di queste imprese sono proprio di ambito nord-est, ma con una varietà molto ampia, che va dai jeans della Diesel ai braccialetti di Morellato fino alle sedie di Magis o alle poltrone di Moroso. Per cui una diversità tipologica straordinaria addensata in un raggio di un 150 chilometri. Si è parlato tanto al Festival delle Città e Imprese dell'innovazione, no? Dell'innovazione come carta vincente necessaria per superare la crisi. Ma poi dai concetti, dalle parole che importanti, benché espresse da docenti universitari, imprenditori di fama nazionale e internazionale, poi nella pratica come si fa? Infatti, poi il problema di questo tema della bulimia dell'innovazione. In questi giorni, appunto, dal titolo del festival, l'incontro stamattina abbiamo fatto l'incontro, era innovare la tradizione, innovare l'innovazione. Poi invece c'è un abuso del termine innovazione, c'è stato un abuso in questi anni anche del termine creatività. Quando la comunità europea dice che l'industria creativa fattura il 2,7% del PIL europeo, in realtà si riferisce ad un sistema non ben chiaro, che mette dentro quello che stamattina sta facendo il video matrimoniale in un paesino veneto come la De Laurentiis, mette dentro quello che fa a Bassano del Grappa, fa la ceramica nel sottoscala come la Bisazza. Per cui l'innovazione, che è un termine molto ampio, dalla moda alla tecnologia, dall'aerospaziale ai beni culturali, è abusato. Chi ne parla molto spesso non conosce dal di dentro i processi, per cui è molto facile, perché sembra che sia una di quelle classiche parole scacciacrisi, creatività, innovazione, design. In realtà bisogna parlare di processi, di creazione di condizioni ambientali. L'unica cosa che probabilmente andrebbe chiesta alle parti istituzionali è di creare delle condizioni per cui questa benedetta innovazione capiti, non soffermandosi sui singoli settori, ma creare delle condizioni ambientali, che vuol dire ridurre la distanza tra noi e la contemporaneità, rendere questo territorio, l'Italia, un po' più giovane, un po' più fresco, un po' più dinamico, farci sentire nelle nostre città un po' con quella carica sparkling, gassosa, che abbiamo quando siamo a Berlino o quando ce ne stiamo a New York. Invece c'è questo purtroppo tema che, insomma, che c'è una sorta di tristezza, di lentezza, di incapacità di... Curiosamente, perché i territori, e questo non solo nel nord-est, ma l'Italia, hanno una piattaforma culturale, storica, artistica straordinaria e hanno anche tutte queste benedette eccellenze, come dicono i politici, negli ambiti della produzione. Non si capisce bene perché non vengano matchate, e per cui penso che la grande innovazione sia quella di, all'immagine che ha l'Italia, agganciare anche l'autorevolezza di un sistema, per cui crea delle condizioni, per cui delle infrastrutture, non semplicemente fisiche. 2 mesi fa è stato aperto il passante, grande opera attesa da 30 anni, ma i passanti del futuro non sono più quelli fisici, dove ci passano i camion bilici o andiamo in sono i posti dove ci passeranno le merci materiali, e dobbiamo creare quelle condizioni, le biblioteche come le infrastrutture di servizio che permettono a un territorio di sviluppare. Quella sarà la grande innovazione. Poi l'innovazione singola, la fanno già benissimo i singoli. Cioè non... C'è un difetto anche di comunicazione, perché per esempio tu mi parlavi di questo nord-est presente massicciamente a New York, un nord-est di eccellenza, un nord-est con un PIL da paura, ma chi lo sa che questo nord-est è così forte e che non è soltanto il nord-est dei cinesi d'Europa con un'immagine distorta che spesso sia del nord-est? Ma non lo sa nessuno, perché quando le grandi aziende poi cominciarono a crescere anche in termini di internazionalizzazione, spostarono l'ufficio stampa e le relazioni pubbliche, le spostarono nel centro di smistamento Milano. Per cui un nord-est con questa straordinaria capacità produttiva aveva spostato la sua capacità comunicativa su Milano e l'ha sempre fatto singolarmente. E mai con un lavoro di sistema, perché le associazioni sono di categoria, molto spesso sono luoghi politici, non sono luoghi di creazione né di immagini, non hanno quella come loro natura principale. Per cui c'è stato questo difetto straordinario di comunicazione di un territorio, è mancata una filiera di senso che provasse a dire: guardate signori che noi vestiamo parte del mondo, quello su più o meno su quello su cui ci sediamo viene fatto a nord-est, quello su cui ti butti, cioè parte della seduzione che passa molto attraverso la moda e il manifatturiero, viene creata una, però non è mai stata creata una filiera di senso che avesse, fosse adeguatamente vicina per immagine a quella delle singole aziende. Motivo per cui se un territorio viene rappresentato per Salamella e per Cabernet, difficilmente il signor Renzo Rosso sponsorizzerà un progetto territoriale o si sentirà parte di un progetto territoriale, perché considererà folcloristico associarsi ad un processo territoriale, cioè non si riconosce in quel territorio. Per cui capita appunto aziende che preferiscono avere l'indirizzo a Milano piuttosto che ad Alte di Montecchio Maggiore o a Doneghe. Se questa contemporaneità percola anche nei territori, fa sì che il livello di immagine di rappresentazione di un territorio, che ormai deve essere pensato più come un open source, non come un consiglio d'amministrazione, deve essere, per funzionare, deve essere adeguato al sistema moda. Per cui io, associazione di categoria, che rappresento la moda, non posso avere un'immagine naif se rappresento chi poi ha potere di seduzione internazionale e produce, come dire, una posizione culturale. Per cui devo assumere, per essere realmente qui e portare avanti un livello di rappresentazione e di innovazione, bisogna assumere caratteristiche simili a quelle all'interno delle aziende di rappresentazione d'immagine.